America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. That would include stuff like this assortment from the lagoon: cuttlefish roe, sea snails, baby octopus, and mantis shrimp. All cooked in the only restaurant kitchen in Venice allowed to still use a wood fire. It's a lot of work. Wood has to be brought. Bring in the wood. It's also bloody hot in there. It's summertime and they've still got this thing raging. And a lot of people say to them, like, why on earth would you do it? And he's, you know, the flavor is not the same. Anthony Bourdain, l'avete sentito, uno dei grandi cuochi americani che raccontava da Venezia in video, in televisione, come si fanno certi gamberi molto speciali. E devo dire che il cibo italiano ormai pervade l'America sotto ogni punto di vista, perché non soltanto nei negozi, non soltanto le specialità, ma così nella ricerca di ricette. Pensate che ogni volta che c'è un qualche cosa di speciale legato a una storia alimentare italiana sul New York Times, balza subito in testa alle classifiche degli articoli più letti. Un altro esempio. I have a friend who says it's not a real barbecue until the fire department shows up. I don't know if I believe in that. But I've invited some friends for a barbecue tonight. We're not going to grill chicken. We're not grilling ribs. We're going to grill pizza. And the fun part is everybody gets to make their own. Ecco, questa era Ina Gardner, che si fa chiamare The Barefoot Contessa, cioè la contessa a piedi scalzi. E la sua storia, tra l'altro, è meravigliosa, perché pensate, di formazione è un economista. Poi a un certo punto ha letto un annuncio, voleva cambiare mestiere, lavorava, pensate, addirittura alla Casa Bianca, e lì si stufa, vede che c'è un annuncio di vendita di un locale che si chiama appunto The Barefoot Contessa. Lei è attirata da questo nome, lo compra e trasforma il tutto in un business pazzesco. Lo compra agli Hamptons, quindi cambia anche città, si muove. Un esempio così di come questo paese è reattivo, di come le persone sono flessibili, si danno da fare, non si fermano davanti a un ostacolo, e adesso guadagna milioni di dollari perché ogni libro che vende fa un pubblico pazzesco grazie a questi video che produce. Pensate, li produce tutti insieme, fa una ventina di puntate nel giro di una settimana, e tutte fatte nel barn che si è fatta costruire di fianco a casa sua. Il barn, diciamo, è la definizione un po' del fienile, no? Sono queste costruzioni di legno un po' alte. Ecco, questo per dirvi che cosa? Che nell'anno in cui abbiamo l'Expo 2015 a Milano, la cucina italiana ha già trovato un terreno molto fertile su cui crescere, e che secondo me crescerà ancora di più grazie a quello che sta capitando a Milano in questo periodo. Vi do anche una notizia da cui poi volevo partire, perché questa trasmissione è stata ispirata da una notizia che mi ha un po' rattristato, e cioè la chiusura di un ristorante italiano in America, ma di un ristorante italiano che è stato fra i primi a portare quella vera cucina italiana in questo paese. Il ristorante di Tony May. Tony May è stato un precursore, una trentina d'anni fa ha lanciato il San Domenico a New York, vicino a Columbus Circle, poi ha cambiato, aveva anche un ristorante alle Due Torri, pensate, ha perso questo ristorante nell'attacco dell'11 settembre, ne ha aperto un altro SD 26, cioè San Domenico 26, downtown sulla 26ª strada, e proprio nell'ultimo settimane lo ha venduto, e per me si è chiusa un'epoca. Ma io ho con me ai microfoni di America 24 per parlare di cucina italiana in America, ma per parlare di cucina in America, di come un po' si è evoluto il gusto americano, Guido Barenson, condirettore della guida dei ristoranti dell'Espresso, e qui a New York per qualche giorno, ma lui era a New York tanti anni fa. Guido, una trentina, buongiorno. Preferirei non rispondere a questa domanda. Vabbè, allora anche di più, diciamo, sì, almeno una trentina. Allora, ci teniamo qui per Repubblica. Ai grandi debutti di Repubblica. Ecco, allora Guido, intanto, lo sapevi che Tony May aveva chiuso il No, non lo sapevo, e devo dirti la verità, mi rattrista molto apprendere da te in diretta appunto della chiusura del ristorante di Tony May, il quale lascia evidentemente perché si è stancato, perché gli anni poi passano per tutti. Ecco, però ha lasciato soprattutto una grande eredità. Ma lui, secondo me, è stato uno dei pionieri, cioè è stato uno degli italiani di gran successo che sono venuti qua e che ha portato all'America che contava, che conta, che è sempre la stessa, la buona cucina italiana, e non cioè ha fatto scoprire all'America una cucina, la vera cucina italiana, che prima invece passava attraverso la decadenza di molte cucine regionali. Ecco, te ne aggiungo un altro, che è forse un personaggio, non so se lo conosci o meno, qua ti faccio l'esame, Aldo Bozzi, sai chi è? Aldo Bozzi no. Ecco, Aldo Bozzi era il capo dell'Alfa Romeo Nord America, poi però, siccome l'hanno richiamato perché è stato qualche pasticcio, parliamo anni late 70s, ha deciso di restare e ha aperto un ristorante che si chiama Mezzaluna. questo lo conoscerai. Come Mezzaluna, no, certo. Ecco, Mezzaluna, non sapevo che fosse sua. Esatto, Mezzaluna ha fatto una... E che cosa ha fatto? Ha portato quella che la pizzeria, un ristorante più semplice, perché insomma il San Domenico e May era un ristorante top, di lusso, questo certo. Invece è un ristorante dove c'è la tipica trattoria italiana. Adesso ce ne sono mille, però risalgono questi due fenomeni che hanno come dire migliorato la percezione della cucina italiana, secondo me, a questi due. Ma non c'è dubbio, la cosa che secondo me è ancora più interessante, oltre ai fenomeni proprio di ristoranti legati a persone italiane, è che ormai la cucina italiana, il nostro approccio alla gastronomia è entrato nel DNA di tutti gli altri grandi cuochi. Primo, l'altro dato che ti colpisce, tu sei un viaggiatore, insomma tu viaggi molto negli Stati Uniti, io viaggio un po' ovunque, in tutti i grandi alberghi noi eravamo abituati a trovare solo ristoranti francesi, adesso tu vai e scopri che ci sono ristoranti italiani o ristoranti di ispirazione italiana, è una rivoluzione. E questo ha portato una piccola rivoluzione anche nel modo in cui poi gli americani mangiano e in cui gli americani cucinano. Ecco, sei stato in giro in questi giorni, come ti è sembrata cambiata o non cambiata la cucina americana? Da chi sei stato? Poi dopo ti dico anche se voi, i prossimi sono andati, la sensazione è che ci siano due linee, che ci sia la linea bassa, diciamo, la linea di vastissimo consumo, che a parte una notevole, una evidente attenzione per i grassi che sono spariti, rimane una cucina molto ricca, no? C'è un tasso di obesità mostruoso che è provocato negli Stati Uniti da questo tipo di alimentazione sbagliata. E poi c'è invece una linea alta di gastronomia che è quella più sensibile all'idea di una alimentazione sana, anche con alcune esagerazioni, perché si diventa dei salutisti, si diventa anche paranoici su quello che si mangia. Ecco, per esempio, un mio amico adesso è la cosa che va per la maggiore, sono diventati vegan. E vegan vuol dire che tu mangi solo vegetali, neanche formaggi, neanche uova, neanche per non parlare del pesce, di queste cose qua. Ecco, cosa pensi di massimo rispetto per i vegani? Secondo me è il frutto della paura, è il frutto di un'insicurezza diffusa che c'è nell'Occidente, che è legata agli eccessi dei nostri stili di vita e che però può provocare molti danni, nel senso che credo che ci vorranno anni e anni di sperimentazione prima che una dieta strettamente vegana possa offrire le stesse sicurezze, penso ai nostri figli, no? Ecco, Guido, un piatto americano che tu in questo tuo viaggio a New York hai assaggiato e hai detto, oh my God... Hamburger tutta la vita, quelli che non faccio mangiare, che non ho fatto mangiare i miei figli per 20 anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo qui con noi, Guido Barenzo. Guido, la canzone del giorno, cosa, una canzone gastronomica, cosa ti viene in mente? Ma no, non necessariamente, io una canzone, insomma, sono canzoni datate le mie, non essendo un ragazzino. Io direi che Perfect Day potrebbe essere una buona scelta per chiudere, anche perché è una giornata meravigliosa oggi a Manhattan, c'è il cielo, io sono un uomo di mare, c'è il cielo del mare oggi. Ottimo Guido, in effetti la giornata è bellissima, di Lou Reed, Perfect Day. Just a perfect day, drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!